Allora, nell'attesa di espletare le ultime formalità legate alle nostre iniziative, intanto vi do il benvenuto. E, la biblioteca farà delle fotografie e soprattutto una registrazione audio che può essere riascoltata dalla pagina web della nostra biblioteca e alla voce podcast, dove ci sono già 750 registrazioni, ecco, che stanno diventando un patrimonio culturale, quasi anche le registrazioni delle nostre iniziative, 25 anni di iniziative. Non mi dicevano gli ospiti che non vogliono riprese video. Ecco. Per alcuni non è possibile, ecco, quindi lo comunico nel caso in cui ci fossero delle riprese e qualcuno avesse intenzione di fare una ripresa. Bene, allora siamo qui riuniti, pensavo proprio che con Chianura l'ultima volta era proprio le giornate tremende dell'avvio dell'emergenza Covid, ma ci ritroviamo adesso dopo tanti anni con questa splendida occasione, il libro dedicato a un nostro concittadino di fama mondiale, il maestro Carlo Maria Giulini, e vedo che questa sera c'è un bel pubblico nutrito e soprattutto molto qualificato. È un'iniziativa questa della Biblioteca Provinciale in collaborazione con il Sor Optimist International, che stasera è rappresentata da molte signore qui presenti che saluto e ringrazio, e dalla loro presidente che inviterei anche qui con me a dare il benvenuto a questa iniziativa che vede la presenza dei nostri due ospiti, appunto Claudio Chianura e Yvonne Miracolo, che ci aiuterà nella moderazione di questa splendida serata. Vi ringrazio e cedo la parola alla presidente del Sor Optimist di Bolzano. Grazie Valeria, buonasera a tutti, benvenuti a questo evento. Per chi non mi conoscesse, io sono Ines Adonizio, sono la presidente pro tempore della Sor Optimist International Club Bolzano Pozen. È un'associazione mondiale su base volontaria di donne che svolgono diverse attività professionali e manageriali con lo scopo di promuovere l'avanzamento della condizione femminile delle donne, la piena realizzazione delle pari opportunità e dei diritti umani. L'associazione nasce nel 1921 negli USA ed è presente in oltre 120 paesi con 66.000 socie. In Italia ci sono più di 160 club con 5.200 socie. In Alto Adige siamo presenti a Bolzano, a Merano, il club Merania, e a Brunico, il club Valpusteria Pustertal. Per noi è stato importante anche collaborare con la Biblioteca Claudio Augusta per questa serata, perché tra gli obiettivi del Sor Optimist c'è anche la cultura, è un ambito per noi molto importante. Altri ambiti sui quali noi lavoriamo sono l'educazione, l'empowerment, il contrasto alla violenza, lo sviluppo sostenibile, quindi diverse aree le quali lavoriamo a livello nazionale e anche locale. Uno degli ultimi progetti è stata la realizzazione della stanza tutta per sé presso la questura. Abbiamo realizzato anche corsi di educazione finanziaria e attualmente stiamo lavorando ad un progetto in collaborazione con il Teatro Stabile che si occupa di laboratori per giovani affette da disturbi di comportamento alimentare, purtroppo un fenomeno che è in aumento da diversi anni. Ecco, questi alcuni dei nostri progetti, e vi abbiamo anche lasciato un flyer. Ringrazio ancora Valeria Trevisan e auguro a tutti una buona serata e grazie ai relatori. Grazie Ines Adonizio. Ancora due avvisi. Allora, la Biblioteca Provinciale organizza settimanalmente degli incontri per promuovere la lettura, per suggerire delle nuove curiosità, ecco. E la prossima settimana, martedì alle ore 17:30, sempre in questa sala, ci troveremo per la presentazione di un libro dedicato al rogo dei libri bruciati. Il titolo è Bebelplatz, sarà presente con noi Fabio Stassi e la moderazione di questa presentazione sarà a cura di Emanuela Scichitano. Quindi siete invitati a tornare a trovarci la prossima settimana, sempre alle 17:30, qui presso la sala 0 del Trevi Lab. E altri appuntamenti li trovate con le nostre locandine, i nostri inviti, e potete telefonare qui in biblioteca per le varie informazioni. Bene, allora la parola a voi. Grazie e buona serata. Grazie alla direttrice, buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Grazie di essere venuti così numerosi oggi questa sera per la presentazione di questo libro su, devo dire, uno dei grandi, veramente dei grandi della musica. Carlo Maria Giulini, sì, si può mettere in un... in una frase con Herbert von Karajan, con Sergiu Celibidache, con Bruno Walter, con tutti i grandi di quell'epoca. Però lui era in un certo senso anche un... era rivoluzionario, nel senso che si è sempre considerato come, diciamo, servo della musica. Lui non era il despota sul palco. Lui si vedeva come collega dei professori d'orchestra. Io qua vedo il sindaco di Bolzano, dottor Caramaschi, se vuole magari dire due parole alle persone presenti. Mi prendono sempre il contropiede. No, grazie. È un libro, io l'ho già letto, quindi l'ho bevuto in una sera, fino a l'una di notte, quindi è un libro che mancava, perché Carlo Maria Giulini, io ho avuto la fortuna di portarlo per un concerto a Bolzano, da Milano aveva la moglie che non stava bene, l'ho portato, quindi è stato un viaggio di 3 ore e mezzo dove si è parlato solo di musica. Lui in quell'occasione con la Filarmonica della Scala ha fatto la seconda, la quarta sinfonia di Brahms, però era una scelta, lei l'ha scritto, era profondamente religioso, scavava le sue interpretazioni, non aveva un repertorio amplissimo, ma quelle che faceva veramente credo che rimanga nella storia della musica, perché al di là del Celibidache e Bruno Walter, però io appassionato poi sbaglio e certamente farò valutazioni sbagliate sulla sua interpretazione, la nona per me di Bruckner, che ha fatto con i Wiener Filarmoniker, perché quell'inizio non ce l'ha, Celibidache, Karajan di sicuro. Abado si avvicina perché è aiutato da una registrazione successiva dove i mezzi tecnici sono ampi, però devo dire che qui sono orgoglioso che venga presentato questo libro, perché in fondo Claudio Abado e Carlo Maria Giulini hanno avuto la cittadinanza onoraria della città di Bolzano e sono nella collina dei saggi. Quando le scuole vanno e sono insieme a buona compagnia, al Beato Mayr Nusse, 2 medaglie d'oro della Resistenza, le prime 2 donne che abbiamo nominato in Consiglio Comunale, e quindi adottano un albero e approfondiscono con le classi la storia di quei nomi. E quindi è un permanere, un dilatarsi di questo messaggio musicale che credo di altissimo valore etico, morale, è veramente un grandissimo della musica, una scelta che ha lasciato il segno nell'interpretazione musicale e nella civiltà occidentale della storia della musica. Grazie. Grazie, signor sindaco. Ne volevo solamente, visto che siamo in una fase ancora di Amarcord, che vorrei anche chiamare, perché abbiamo qui in sala il piacere di avere anche dei parenti del maestro Carlo Maria Giulini. Volevo appunto salutarli. E quindi so che ci sono i nipoti, e se può venire un attimo anche uno di loro a regalarci un ricordo. Piacere, Antonio. Sì, di Alberto. Buonasera, anch'io preso in contropiede. Prima mi hanno chiesto se sarei stato disponibile, mio malgrado lo farò. Allora ho pensato in questi 5 minuti cosa ricordare dello zio Carlo. Per me, ovviamente, per noi è sempre stato lo zio Carlo. Dal punto di vista, diciamo, strettamente familiare, diciamo, restando all'ambito strettamente appunto dei ricordi di famiglia e della sua vita, lui quando è andato a Roma, a Santa Cecilia, ha avuto l'occasione. E lì a Santa Cecilia studiava pianoforte e si era diplomata una sorella di mia mamma, e lì ha avuto così l'occasione di conoscere la sorella più giovane che ha sposato, era Marcella. E da lì poi mio papà ha avuto l'opportunità di conoscere nostra mamma e quindi due fratelli avevano sposato due sorelle. Riguardo alla musica posso dire questo ricordo. Lui diceva sempre che il direttore d'orchestra è l'unico musicista che fa musica senza avere un rapporto fisico con lo strumento. Il suo strumento è l'orchestra. E qui la difficoltà di trasmettere tutto la tensione spirituale, al di là della difficoltà di entrare nella partitura e capire in quelle che lui chiamava quelle piccole note, quei segni scritti dall'autore, dal compositore, entrare in empatia, fare proprio quella musica e poi riuscire a trasportare il sentimento all'orchestra. E un'ultima cosa, sì, riguardo alle registrazioni, visto che il sindaco faceva riferimento anche ad incisioni di altri direttori, rispetto ad altri, lui ha inciso molto poco, perché ha fatto quello che doveva fare per i contratti che aveva con le orchestre, però amava molto poco e definiva, salvo quei pochi concerti registrati in diretta con Benedetti Michelangeli, mi ricordo, un concerto in Svizzera che avevano fatto per beneficenza della Croce Rossa, e se no le incisioni le definiva proprio dei meravigliosi cadaveri musicali. Ecco. Grazie mille, grazie al nipote di Carlo Maria Giulini. E adesso credo che sia arrivato il momento di salutare anche l'autore del libro, Claudio Chianura. Grazie mille di essere venuto qui. Siamo già con i piedi nel piatto, come si dice malamente. No, è curiosa questa cosa, perché Giulini è cresciuto registrando in studio. Cioè, lui, tutta la sua grande esperienza, a parte gli anni romani, dove come dodicesima viola si godeva probabilmente la più grande orchestra che sia mai esistita in Italia, dicono alcuni, ma soprattutto orchestra diretta dai più grandi direttori che venivano da ogni parte in Italia a dirigere, per cui Giulini ha avuto lì veramente la possibilità di crescere sotto la direzione dei più grandi e vedere che cos'era la direzione d'orchestra. Ma subito dopo, quando viene chiamato, anzi inviato a Milano, perché a quel punto va per la prima volta a Milano dopo nell'immediato secondo dopoguerra, a formare l'orchestra della RAI di Milano, che cosa fa? Non fa altro che incidere, cioè registrare dei concerti, perché la RAI, l'orchestra della RAI, registrava dei concerti per la radio, quindi senza pubblico, in studio. E corrisponde esattamente alla registrazione, no? In studio di registrazione. Ma credo che facessero anche molto in diretta. Sì, certo, sì. Certo, ma l'ha fatto anche nei dischi Giulini, no? Sì, perché sì, ci sono questi aneddoti in cui dopo 3, 4, 5 prove, montaggio e tutto, poi la fanno tutta diretta e dice buona questa e la teniamo. Quindi, certo, però tutto questo entra poi nel campo dell'imponderabile, che come vediamo ha un peso abbastanza importante nell'opera di Giulini, perché ce l'ha in tutta la musica. Lasciatemi aggiungere solo una cosa, siccome molto gentilmente Valeria ha ricordato che quando c'è stato il lockdown, non tanto prima, il giorno prima abbiamo annullato un incontro qua in biblioteca che doveva esserci il 5 marzo del 2020 e l'incontro era con Albert Mayer. Lasciate che io ricordi altri due importantissime figure della musica a Bolzano. Uno è Albert Mayer, che è un teorico della musica di importanza enorme. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, ho fatto un documentario su di lui, grazie al Centro Audiovisivo di Bolzano, con cui ho fatto diversi lavori di documentari. col Centro Audiovisivo ho fatto anche il documentario su Andrea Mascagni, che è l'altro personaggio che dobbiamo assolutamente ricordare, perché la grandezza, se c'è, e noi pensiamo che ci sia, di Bolzano come capitale della musica, sta nel fatto che non c'è solo un personaggio, se no Barletta sarebbe la capitale della musica nel mondo, avendo avuto, o Molfetta. Molfetta ha avuto addirittura due grandi musicisti, che sono Muti e Caparezza, scusate, ma mi tocca dirlo. Per cui la grandezza di Bolzano è proprio questa, che accanto, cioè Mascagni, l'orchestra Haydn nasce grazie anche a Mascagni, Albert Mayer ha studiato in Canada il paesaggio sonoro con Schaffer, che è uno dei più grandi studiosi dell'ambito musicale sonoro di cui io principalmente mi occupo e da cui parto per arrivare a Giulini. Quindi, ricordati questi due personaggi, forse possiamo vedere questo piccolo trailer. Certo, io vorrei aggiungere solo anche un altro musicista, cioè Arturo Benedetti Michelangeli, perché grazie a lui anche che, diciamo in un certo senso, esiste il concorso Busoni. Quindi Bolzano è veramente una capitale come... E poi c'è il concorso Busoni. C'è il concorso Busoni. Io ho fatto poi un documentario, Bolzano. Anche tu, abbiamo fatto due lavori distinti su Busoni, quindi lo sappiamo bene, lo diamo per scontato. E poi c'è da non dimenticare che Claudio Abbado ha scelto Bolzano come Residenzstadt del Gustav Mahler Jugendorchester. Quindi Bolzano è veramente un centro importantissimo per la musica. E direi appunto adesso se vediamo d'accordo, vediamo questo trailer. Abbiamo preparato un 6 minuti circa, che è un estratto del documentario che, da cui nasce il mio interesse per Giulini, un documentario che ho fatto sempre col Centro Audiovisivi 10 anni fa per il decennale della scomparsa, e ha qualche elemento più biografico da cui possiamo partire per la nostra conversazione. Giulini is a legend in most countries in the world that I've been to. In America, he was associated with two of the best orchestras. I mean, Chicago Symphony for many years as principal guest conductor, and LA Philharmonic as principal conductor. And everybody, wherever you mention the name Giulini, in America, in London with the Philharmonic Orchestra where he conducted, in Germany, whether it's Stuttgart or Berlin or Vienna Symphony Orchestra and so on, even in Paris, people always, whenever you mention the name Giulini, you see how people glow suddenly and they go, oh, that was that one experience that completely changed my life. And if you speak to orchestra musicians that played with him, it's very interesting. Some of these people played with the greatest conductors 30 years, 40 years afterwards. When you say the name Giulini, they open their eyes and they say, that was the one concert which reminded me why I'm a musician. Diversamente da tanti altri artisti, è stato un uomo che ha rappresentato un modo di fare musica, ma soprattutto di partecipare alla vita della musica e alla vita degli autori, dei teatri nei quali ha lavorato, in una maniera così speciale che ancora oggi forse ci chiediamo chi sia stato veramente Carlo Maria Giulini. Man was really like a priest to music, as a servant to music, as a priest is to God. And it was not just words, it was truly the way he lived. I saw this in his face, I saw it in his manner every day. And it was as honest as you can imagine. And he felt that he had he was truly humble. He felt that he had the privilege and also the duty to serve this music. And that was it. There was no ego, there was no power issues, there was no, there was just pure generosity to share. Questo rapporto tra le persone viene sempre a galla nelle sue scelte anche artistiche, esattamente come viene a galla in tutte le altre sue espressioni. Voleva sempre conoscere le persone, creare proprio questo rapporto profondo, e forse questo gli riusciva anche perché il suo modo di essere, evidentemente già rafforzato in quegli anni 50, in cui, diciamo, gli anni in cui Giulini era di successo, aveva successo, era un uomo di mondo, involontariamente, ma lo era al centro delle grandi prime della Scala, seppe sempre tenere fede a quel precetto, ovvero distinguere quello che era la vita normale dalla vita dell'artista, esattamente come era il suo modo di vivere familiare. Credo che un'esperienza proprio formativa e anche molto emblematica fosse entrare a casa di Giulini. A casa dello studio di Carlo Maria Giulini era uno studio in cui la musica c'era e non c'era. Era uno studio in cui sì, c'era un pianoforte, c'era una custodia del suo strumento, la viola, che non toccò più per anni, dal momento in cui, come raccontava il maestro, una mattina ho tentato di mettere le mani sullo strumento e mi sono accorto che i movimenti non erano più naturali, non erano più spontanei, allora ho capito che era finita una vicenda. A parte questa custodia, a parte un pianoforte, ma chiuso, un classico pianoforte chiuso che serviva per le foto di famiglia, non c'era niente che ricordasse che Giulini era ed era stato un artista. Non c'era una locandina, non c'era un riferimento che non fosse quello di un uomo normale, un uomo chiuso un po' nel suo silenzio. Difatti ha sempre detto: per me la musica nasce dal silenzio. Dice: io non ho mai studiato il pianoforte, io ho bisogno di leggere, di guardare le partiture, di studiarle finché le partiture mi parlano. Le partiture creano la musica, e a quel punto la musica è una cosa che io posso fare. Prima non posso, ma mi deve parlare, questo suono mi deve entrare dentro. Claudio, io ho avuto la fortuna di poter leggere questo libro. Intanto la prima cosa che mi salta all'occhio è il titolo, cioè la musica è un atto d'amore. Diciamo che possiamo dire che è una citazione. È una citazione, è una frase di Giulini. Una frase di Giulini che nel mio utilizzo acquista però un secondo significato. È un atto d'amore perché Giulini addirittura diceva all'orchestra: datemi amore, give me love, diceva, arriva davanti all'orchestra, non so se è una frase che abbiamo mai sentito dire da un direttore d'orchestra. Cioè la musica per lui era questo darsi completamente, era proprio un atto d'amore. Però qui c'è un altro amore molto importante nella vita di Giulini, che è l'amore per la moglie. Perché Marcella De Girolami è una figura molto importante. Lasciatemi dire, ho appena finito un secondo documentario, abbiate pazienza, un po' più breve, questo era un trailer. L'ho girato settimana scorsa con Alberto, che è il figlio secondogenito di Giulini. E per la prima volta mi sembra che si racconti un Giulini privato, non intimo, perché non sarebbe anche fuori luogo parlare di Giulini in maniera così eccessivamente personale. Però è una storia d'amore importante, perché Marcella sceglie Giulini e da quel momento lei diventa davvero la possibilità per Giulini di dedicarsi completamente alla musica, perché è Marcella che pensa a tutto, pensa ai tre figli, ha due crolli, questa donna fortissima che a 13 anni lascia, c'è un breve capitolo anche nel libro, io capisco che uno parlando di Giulini parla della moglie, ma credetemi è tutt'altro che fuori luogo. A 13 anni questa donna a Roma lascia la scuola media e va a lavorare nella ditta di termoidraulica del padre e si occupa lei di controllare che gli operai facciano il loro lavoro, si occupa di amministrazione, e da una finestrella che dà esattamente su Santa Cecilia tiene d'occhio questo giovane di belle promesse di cui la sorella maggiore le parla in continuazione, per cui lei sa tutto di questo giovane musicista, riesce ad avere il telefono delle due signore da cui Giulini sta a pensione e comincia a fargli delle telefonate anonime, in cui non minacciose, ma anonime, in cui rivela di sapere delle cose, cosa succede, finché fortuitamente un giorno in cui lei esce a fumare una sigaretta, stiamo parlando di una ragazzina, cioè è una donna che fa di quelle cose per l'epoca, stiamo parlando, lei è del 21, stiamo parlando degli anni 30, appena prima dello scoppio della guerra, quindi non è proprio una cosa che fosse tanto consueta. Lei esce a fumare la sigaretta, pensa che Giulini sia a lezione, invece la lezione è stata sospesa per qualche motivo e Giulini la vede, lei scappa, lui la insegue e dice allora sei tu, che pare che in famiglia sia rimasta una frase ricorrente e celebre, questo allora sei tu, vuol dire t'ho beccata. Ma Giulini entra in clandestinità quando decide che dopo l'armistizio non vuole tornare al nord Italia, lui è un ufficiale e non vuole tornare con le forze nazifasciste, per cui deve nascondersi, viene inserito nella lista dei disertori e questa giovane donna che ha il primo figlio vive col marito nascosto che non può vedere, col bambino piccolo, ha un primo crollo, Marcella rimarrà circa un anno in clinica, per cui il primogenito viene in realtà curato da una seconda madre, diciamo così, ma Marcella poi si riprenderà, andranno a Milano, si occuperà dei tre figli, si occupa del marito, è lei che provvede a tutto, gli compra gli abiti, i vestiti, guarda che sia tutto fatto, addirittura non si firma un contratto se non c'è Marcella, una volta che succede, perché Giulini non voleva occuparsi di queste cose, Marcella esce a fare spese, quando rientra viene a sapere che Giulini ha firmato il contratto con la EMI, credo, e si arrabbia perché ci deve pensare lei. Cioè Giulini, il maestro, viene alleggerito, sollevato da qualunque incombenza, pro e contro ovviamente, ma questa è la vita di Marcella che a 19 anni, il 30 dicembre dell'80, viene colpita da un aneurisma, perde momentaneamente la mobilità e ha un'afasia che recupera nei 15 anni successivi di malattia, di fatto, perché non recupera più completamente, ma non potrà più occuparsi di nulla. Ci sono volute 5 o 6 persone per fare quello che faceva Marcella, mi dice il figlio Alberto, e Giulini abbandona l'orchestra di Los Angeles, torna a Milano e decide che la sua carriera da lì in avanti verrà dedicata a fare per la moglie quello che la moglie ha fatto per lui per tutta la prima parte della vita. Se non è una storia d'amore questa, non so che cos'altro possa esserla. 59. Cosa ho detto? 19. Vabbè. 3 figli. Ero preso. No, i conti qui lasciamoli perdere perché è un continuo ricordarsi chi è nato prima o dopo, perché questa famiglia come diceva Giulini, quando veniva intervistato a Foletto, Foletto gli faceva le domande, diceva no, ma Giulini diceva, ma no, ma mi parli lei, io non, la mia vita è noiosa, non ho niente da raccontare. È vero, è vero, è una vita in qualche modo noiosa. Ma anche questo ripetere sempre i nomi dei figli è un disastro per chi scrive un libro. Non solo ricordarsi le date, ma ricorrono gli stessi nomi tra gli zii, i nipoti, è una roba, c'è cioè, un po' di fantasia. Adesso Antonio e Maria sono contento che ci siano dei nipoti con dei nomi diversi. Per cui sulle date lasciamo perdere. Ok, 59 anni, beh era giovane, 59 anni, scusate. Certo. E poi 15 anni di malattia sono pesanti, assolutamente. Mi fermo su Marcella. Una parte molto importante, diciamo che è la parte centrale, secondo me, del libro, è la figura del direttore d'orchestra. Ora, questa figura di Giulini, direttore d'orchestra, cos'è stato per te la cosa più importante o la, diciamo questo fulmine a ciel sereno che ti ha portato a scrivere questo capitolo molto molto importante in questo libro? Allora, io mi occupo di musica, va bene, ma come premettevo, la mia idea di musica è quella di Albert Mayer. Cioè, quando io studiavo musica elettronica al Conservatorio di Milano, Albert Mayer era uno dei primi docenti di musica elettronica. Lui insegnava a Firenze, perché Mayer andò poi a Firenze per studiare con Dalla Piccola e poi invece si trovò, si innamorò di Pietro Grossi, diciamo così, e della computer music che era nascente, quindi cioè, fece quel percorso ed è quello il mio mondo musicale. Quindi, per me, fare musica senza toccare lo strumento è normale, per chiunque abbia fatto musica elettronica la bacchetta è quasi primordiale, diciamo, no? Cioè, proprio. Faccio un passo indietro, proprio perché il lavoro di Albert Mayer va in questo senso. C'è stata una mostra a Museum, tra l'altro. Ho ricordato Albert Mayer perché dovevamo fare l'incontro qua quando è scoppiato il lockdown e nel frattempo Albert se n'è andato. Uh-huh. E, quindi non abbiamo più potuto farlo. E quindi Museum gli ha dedicato nell'ottantesimo anno, prima che lui morisse, nell'ottantesimo anno, una piccola mostra con dei suoi materiali, eccetera, dove è stato trasmesso anche il documentario che avevo fatto, in cui Albert parla della sua idea di musica e lui usa questa espressione, che è diventato il titolo di un libro in cui ho raccolto i suoi saggi, per un concetto allargato di musica. Guardate, questa è una cosa essenziale. La musica è una questione di tempo e di suono, un fatto acustico che avviene nel tempo. E questo comprende tutta la musica. Quando noi parliamo della musica di Giulini, parliamo della musica sinfonica, dell'opera lirica, della musica del Novecento, della musica classica occidentale, noi parliamo, e lo dico senza voler sminuire perché è la cultura a cui apparteniamo tutti, noi parliamo di una porzione una piccolissima porzione di quello che la musica può essere. E oggi lo sappiamo bene, perché se noi usciamo e chiediamo a 10 persone di farci il nome di un direttore d'orchestra, secondo me non ce ne fanno neanche uno, tra un po' non ce ne faranno neanche di un compositore, se non perché magari nel cinema si usa ancora un po' di musica classica o perché ci sono delle sigle che ogni tanto uno dice ma questo pezzo cos'è, e poi scopri che può essere Mozart piuttosto che Bach o che altro. La musica è un fenomeno molto più ampio e il lavoro di Albert Mayer era proprio nel dire la musica tocca e comprende il nostro quotidiano e l'idea del paesaggio sonoro è proprio questa. A maggior ragione oggi, mentre una volta, 200, 300, 400 anni fa, la musica dovevi andartela a cercare per ascoltarla, immaginate cos'era la società qualche secolo fa. Qualche musicista di strada può essere che lo incontrassi, magari a una fiera a mercato, se no dovevi andare, potendo, ad assistere a un concerto, altrimenti non c'era musica, non c'era nulla. Oggi la musica dobbiamo schivarla, oggi il problema è completamente capovolto. Oggi sfido chiunque a passare una giornata senza ascoltare musica, senza che lo si voglia. Quindi il rapporto quotidiano è di carattere più civile, se non sociale, con la musica, è il vero aspetto. Dopodiché, come questo aspetto si coniuga con un'idea di musica che sta nella scrittura, la notazione, l'interpretazione, l'esecuzione, bla bla bla, tutto quello che sta dentro la musica classica occidentale. Questa è la cosa interessante. Per cui per me parlare di Giulini significa guardare un mondo che non è il mio dall'esterno e fare quasi un lavoro da etnomusicologo, se me lo permetti. Cioè lo guardo con curiosità, perché Giulini per esempio ha vissuto nel Novecento, ma la musica contemporanea non l'ha quasi mai frequentata. Il jazz, lui ha detto mi piacerebbe, Michelangelo lo suonava il jazz, ma Giulini no, Giulini non suonava niente, non metteva neanche le mani sul piano, cosa che altri direttori fanno. Giulini la musica ce l'aveva tutta in testa, lui doveva imparare la partitura, era la sua grande forza, ma perché? Perché lui lo faceva con una dedizione completa e dedicando una quantità di tempo e non facendo altro nella sua vita se non studiando le partiture che gli permettevano di arrivare davanti all'orchestra forte della sua autorevolezza con l'esperienza che aveva, perché se tu hai diretto la Callas con Visconti, no? O hai fatto le tue prime esperienze diretto da Bruno Walter o da Strauss, e dopo è chiaro che quando arrivi davanti a un'orchestra quelli dicono beh, questo qualcosa ne sa, e in più arrivava e lui la partitura la conosceva alla perfezione. Questa è l'autorevolezza di cui un direttore d'orchestra potrebbe vantarsi, cosa che Giulini non faceva, ma eventualmente è questa, non è il fatto dittatoriale, il fatto di imporre la propria idea semplicemente perché sei il direttore d'orchestra. Franco Fantini, che era il primo violino della Scala e aveva quindi suonato con Giulini fino anche ai tempi di Pollini, ma c'è una foto anche, mi sembra, nel libro, ma soprattutto negli anni d'oro della Scala, raccontava che a un certo punto Giulini arriva, intanto Giulini sulle partiture metteva le sue arcate, lui era diplomato in viola, aveva cominciato con violino, poi si era diplomato in viola perché aveva le mani troppo grandi, secondo Principe che l'aveva spinto a andare a Roma a studiare, per cui lascia Bolzano a 14 anni e lì finisce il suo rapporto con Bolzano, quello continuativo. Scopre la musica a Bolzano, comincia a studiare, e prende le prime lezioni, fa questa esperienza, breve inciso anche qui ma importantissimo, questa esperienza della house music che non lo lascerà più. Per Giulini la musica è una pratica quotidiana, normale, non è un fatto scenico, spettacolare, egocentrico, no, si suona. Questa è una cosa che ha imparato qui, perché dove altro, no? È proprio un'idea tipica della Mitteleuropa, la musica che si fa per gusto personale, per cui appunto il farmacista che lascia la farmacia alla moglie e va a suonare con Giulini in quartetto, perché così suonava qua. Questa cosa non l'abbandonerà mai, per cui l'orchestra è uno strumento? No, per Giulini l'orchestra non è uno strumento, perché la vera lezione di Giulini, che vale oggi insieme a gran parte della sua integrità morale, dei suoi comportamenti, delle sue scelte, dei suoi no, e ne ha detti tanti, la vera lezione è che Giulini, e lo possiamo dire in un momento, ma anche il secolo scorso ha visto momenti di questo genere, in cui il popolo, la gente, cioè questi discorsi, Giulini parlava sempre di persone. Non troverete mai in nessuna citazione di Giulini la parola gente, la parola popolo, non esistono, per lui esistono le persone e l'orchestra era fatta di persone e lui era un musicista tra i musicisti. Nel libro cito Prova d'orchestra di Fellini perché dice esattamente quelle cose, secondo me le ha prese da Fellini, chi ha sceneggiato quel film, perché ha usato esattamente le stesse parole che avrebbe detto Giulini. Così come credo Giulini sia stato ripreso in Youth, il film di Sorrentino, perché anche lì questo anziano direttore d'orchestra, interpretato da Michael Caine, quando gli chiede, Harvey Keitel gli chiede, ma ti manca la musica, per cui si è ritirato, dice no, mi manca mia moglie. Mm-hmm. Insomma, a me sembra che sia quella cosa lì, poi magari mi sbaglio. Anche perché la musica, diciamo, in personaggi come Carlo Maria Giulini, anche se non è attivamente sul podio, credo che la musica non l'abbia mai abbandonato, anche nel momento in cui si è ritirato. È quello che tu dicevi, io qua ho un piccolo... Tra cui non posso dire nulla, perché tu ce l'hai scritto lì. No, è un'altra cosa. Lui dirige l'Orchestra Filarmonica di Los Angeles alla prova inaugurale. Giulini sale sul podio e dice... non dimenticate che io sono qua, voi siete là, ma in realtà dobbiamo fare lo stesso lavoro insieme. Noi siamo musicisti, voi siete musicisti, sappiamo benissimo cosa fare. Quindi lui, come dicevo all'inizio, lui si allontana un po' da questa figura del direttore d'orchestra come, sì, chiamiamolo anche despota. Cioè, io ti dico cosa devi fare e guai se sgarri. Ma anche demiurgo, no? Anche l'idea che il direttore d'orchestra sia quello che risolve tutto. Sì, infatti. Cioè, proprio questa figura assoluta lui non ce la può avere. Da persona religiosa qual è, oltretutto? Quelle sono esattamente... è la frase finale di Prova d'Orchestra di Fellini. Uh-huh. Dico esattamente la stessa cosa. Sì. E lui diceva fare musica. Siamo qui per fare musica. Cioè, una cosa più elementare. Grande differenza fra suonare note e fare musica. Esatto. Ora, questo libro, la cosa che personalmente mi ha molto affascinato è che, diciamo, non ha, a parte il fatto, come diceva il signor Sindaco, che l'ha letto anche lui tutto in un fiato, perché è molto accessibile. Cioè, la mia paura, quando ho preso questo libro, la musica è un atto d'amore, di essere praticamente un po' caricati di musicologia, di storie, e invece devo dire che è un libro che si legge veramente tutto d'un fiato, si riesce a immaginare proprio anche, è molto plastico come linguaggio. Quello che ti volevo chiedere è quante volte hai dovuto, diciamo, mettere da parte un'idea per rivedere un po' lo stile e via dicendo, mai? No, mai, perché, ma non perché sia un mio merito. Digetto. Ma il fatto è che se mi interessa un argomento, significa che io riesco a citare Satie, ma con naturalezza, mi stupisco anch'io, dico, ma adesso citare Satie nel libro su Giulini, mi sembra, ma dicono la stessa cosa. Satie dice... l'idea non ha bisogno dell'arte, dove per arte intende la tecnica. Cioè, se tu hai un'idea, la tecnica, e non è solo Giulini a dirlo, passa in secondo piano. Quando arriva Strauss a dirigere l'orchestra dell'Augusteo a Roma, tutti hanno preparato, come racconta Giulini appunto, tutti dovevano le parti farle, eseguirle in prova da soli davanti a tutta l'orchestra. C'era gente che aveva paura. Durante la lì preparazione era, ancora... era in dodicesima viola, l'ultima, perché si fa... oggi non sarebbe possibile, dice lui stesso, e lo dice 30-40 anni fa, cioè non esiste mettere quasi alla berlina i musicisti, fammi vedere se sai fare questa cosa. Preparano così bene il lavoro che quando arriva Strauss e comincia a dirigere, l'orchestra parte con un razzo, Strauss li ferma e dice no, voi fate tutte le note benissimo, ma non è così che si esegue la mia musica. C'è qualcos'altro. Che cosa? Questo. Ci sono tutta una serie di citazioni, ognuno dice qualcosa, Giulini è quello che dice meno di tutti alla fine, perché è sempre abbastanza restio, no? A spiegare, perché per Giulini il mistero, che è connaturato al suo essere religioso, è qualcosa davanti al quale ci si deve fermare. Quando si ammala la moglie, lui dice qualcuno l'ha deciso. È successo così. L'orchestra, ma non potete chiedere a Giulini perché l'orchestra con te suona diversamente. C'è qualcosa, lo sappiamo che c'è qualcosa. Perché la musica? Perché il suono, come diceva Varese, Edgar Varese, il suono organizzato? Dice così, la chiudiamo questa cosa, se è musica o non è musica. La musica è suono organizzato, che è la cosa che dicevamo prima. Cioè, se io sento qualcuno che suona, anche Benedetti Michelangeli, che sta provando il pianoforte lì di lato. La prima cosa che mi, la prima lezione di conservatorio di musica elettronica, il docente disse esattamente questa cosa. Se qualcuno di là sta suonando anche Brahms e noi qui dobbiamo studiare, quello per noi è rumore, non è musica. Il rumore è il fastidio alla musica che stai facendo tu, e quindi questa è una cosa sacrosanta. E secondo me Giulini sta dentro quel mondo, sa quando una cosa lui non la può o non la vuole capire. Suo figlio mi ha detto una cosa, secondo me, me l'ha detto diverse, ma Qualcuna mi ha colpito più di altre, non perché parli del Giulini privato, ma perché secondo me spiega tutto di Giulini. Soprattutto nelle ultime passeggiate che faceva già molto anziano qui a Carezza, col figlio Alberto, ogni tanto gli chiedeva, perché Giulini aveva un po' il cruccio, no, dei giovani, ma il mondo sta cambiando, cosa fanno i giovani, cosa pensano i giovani, che futuro hanno. E Alberto era un pochino più drastico e allora provava a dirgli delle cose e il padre gli disse no, non me le devi dire così, io ho la sensibilità di un bambino di 5 anni, tu non devi aggredirmi con queste spiegazioni. Cioè Giulini aveva quasi paura. Quando in una delle passeggiate in montagna ancora, è la chiusura del documentario nuovo che ho appena finito di montare, e Alberto, il figlio del maestro, mi dice: siamo una comitiva, facciamo questa passeggiata in montagna che ha grosso modo la durata della Sesta di Beethoven, per capirci, e quando arriviamo lui si è appartato, isolato, non partecipa alla conversazione, non cammina per i fatti suoi. Quando arriviamo dice: ah, mi sono goduto la pastorale, una meraviglia. E dice il figlio: bene, un bel talento, però è anche una forma di rifugio. E la musica è sicuramente stata un rifugio anche per Giulini. Forse lo è per tutti questi musicisti, sì, così... Molto probabilmente, totali... sì. Adesso io vorrei tornare un attimo a questa, a questa espressione di suono organizzato. Cioè, non è un controsenso, parlando di suono organizzato, con Giulini. Cioè, lui diceva che la partitura e i segni in questa partitura sono una cosa, però, come diceva Give Me Love, la musica è un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Certo, certo. Allora, io faccio questo altro esempio. Se noi parliamo soltanto della musica classica occidentale, Beethoven, Brahms, Bach, le 3B, le famigerate 3B, noi parliamo di una porzione di musica che è una musica che ha alcune caratteristiche. Primo, è scritta. Secondo, viene eseguita come è stata scritta, o pretende di essere eseguita come è stata scritta, dove però quello che è stato scritto non ci dice tutto, non ci può dire tutto, ci dice le altezze delle note, le durate. Lo so che tu su questo sei sensibile. Le durate, dipende dal metronomo, sì, dipende dall'acustica della sala, dipende, no, ce ne sono di sì, aneddoti, sì, sì, su questa cosa, adesso stiamo semplificando, ma se no tutte le partiture suonerebbero nello stesso modo con qualunque orchestra e con qualunque direttore d'orchestra, cosa che è il presupposto da cui non possiamo partire, non è così, se no non parleremo neanche di Giulini, perché non avrebbe senso. Allora, la musica come fenomeno, è la cosa che dicevo prima, che si svolge nel tempo ed è un fenomeno acustico, ha tutta una porzione prelinguistica che ognuno di noi, e io tengo molto a questo, perché tutti possiamo parlare di musica. Io faccio spesso il paragone con l'enogastronomia, che è la cosa che riesce meglio, ma non lo faccio solo io, lo fanno moltissimi musicisti. Per spiegarti una cosa tecnica ti dicono una cosa che riguarda la tua vita di tutti i giorni. Cioè, tu puoi essere uno che non sei un sommelier, però assaggi un vinaccio, poi ne assaggi uno buono e dici: questo è migliore. Hai già detto qualcosa di corretto sul vino, e non hai studiato nulla del genere. Sulla musica in gran parte è la stessa cosa. Tu ascolti un brano, mi puoi dire: è veloce, è forte, è durato tanto, è durato poco, possiamo arrivare, e poi via via, ci sono delle percussioni, sono degli strumenti a corda, ne puoi dire tantissime di cose prima di arrivare a quell'aspetto che è linguistico, quello sì, non la musica, non il suono organizzato, ma la musica tradizionale, classica, occidentale, che invece non è un linguaggio ma ha degli aspetti linguistici. Cioè, quella nota lì vuol dire quella cosa, ma tra quella nota scritta così e la nota che verrà eseguita c'è ancora uno iato enorme. Quindi ritorniamo a bomba, cioè la musica è qualcosa che sfugge alla definizione linguistica. Non voglio essere complicato, ma per dire semplicemente che godiamoci la musica, più ne ascoltiamo e più ne capiamo, Questa è la cosa vera della musica. Dopodiché, se uno vuol fare il musicista, dipende da che cosa vuole suonare, perché non è mica detto di andare in conservatorio, giusto? Siamo circondati da musicisti che non sono stati in conservatorio, ma non solo cattivi musicisti. No. Gran parte di Bob Dylan in conservatorio non sa che cosa sia. Non è un musicista? Bah, sì, forse meno di Philip Glass, magari, o meno di Paolo Fresu, ecco. Però è tutta musica che ha pari dignità e che possiamo ascoltare, godere e imparare confrontando musica con musica. Il problema della musica diretta da Giulini è che sta lì dentro, motivo per cui io dico Giulini come musicista, secondo me, è confinato nel Novecento, dove peraltro spesso è messo un po' in secondo piano rispetto ad altri direttori. Se prendi il libro di Zurletti sulla direzione dell'orchestra, a Giulini dedica un paragrafo e gli altri hanno 3-4 pagine per dire che ci sono queste gerarchie che sono gerarchie di gusto, sì, anche estetiche, per l'amor del cielo. Quello che resta di Giulini però invece è tutto il resto. La grande lezione, io dico etica, che non dobbiamo per forza fare spettacolo di tutte le cose, che le persone sono individui e quindi dobbiamo trattare tutti allo stesso modo, che occorre anche essere precisi sulle cose, perché non è che lui non fosse tranchant, sapeva esserlo. Quando la Callas dice guardi che io però la Traviata non la faccio, faccio tutta diversa dalla Tebaldi, e lui dice qui c'è scritto Giuseppe Verdi, facciamola come dice lui. Cioè lì non si scappa, perché sennò... Cioè, quindi ecco, non è che tutto vale tutto, ecco, però bisogna sapere dove distinguere e dove no. Ci stanno allargando troppo, si parla di massimi sistemi, ma è, scusatemi, ma è, per me è un po' così. Adesso torniamo un attimo a noi. Cioè l'idea di scrivere un libro su Carlo Maria Giulini, cioè anzi l'idea di... sì, di come si potrebbe dire, di vedere questa, la vita di questo. Perché io voglio che si sappiano queste cose che stavo dicendo adesso. Cioè voglio che si sappia che le persone, non sono popolo, gente, orchestra, non sono quella roba lì, non esiste. Quelli sono concetti fuorvianti e spesso perversi, primo. In secondo luogo, che si può dire di no, si può dire... devo dare spettacolo perché dobbiamo raccogliere i fondi, no? Adesso si fanno gli open day tutte le scuole, ma ai nostri tempi, i miei, che sono un po'... l'open day a scuola, tu ti scrivevi nella scuola, scusate, esulo, ti scrivevi nella scuola di quartiere, ma è che open day, che la scuola si deve comprare? Ai nostri tempi ce n'erano 4 di scuole. Sì, ma quella era, io ho fatto il classico perché il mio scientifico, che era sotto casa, era oltre il confine, per cui dovevo andare allo scientifico d'altra parte, dico allora vado al classico, cioè funzionava così, che era assurdo, ma era così. Però voglio dire, non è che si può proprio vivere sempre in un modo per cui ogni cosa viene presa. Lui si vede, Giulini è in albergo a Londra, dà un occhio alla televisione e dice ma chi è quel pagliaccio che dirige? Ed era lui. Quella roba lo colpisce così tanto che dice quando sono salito sul podio per il concerto a Londra ho avuto i 15 minuti più brutti della mia vita perché io non ero più sereno, io vedevo me stesso come l'avevo visto nel video. Ma vogliamo parlare di come i ragazzi si vedono oggi? Cioè è tutto video. Quindi queste sono secondo me lezioni importanti perché... Diciamo che Giulini apparteneva anche a una generazione che... dove l'emozione era più all'interno, cioè anche se prendiamo i violinisti o i pianisti, se prendiamo un Arturo Benedetti Michelangeli, tirava fuori da quel pianoforte dei suoni che non si riescono ancora a comprendere, eppure lui era impassibile, così come anche Giulini, non è che fosse impassibile una maschera, neanche Toscanini, però non c'era questa... diciamo questa voglia di dare, chiamiamolo spettacolo, specialmente anche al Busoni quando si vedono questi giovani musicisti. È diventato quasi necessario perché di fatto la posizione anche sulla musica pop, che per alcuni può essere naturale, Bernstein ha detto che la musica popular, come la chiamano gli anglosassoni, è una musica che ha pari dignità e che ha diritto di esistere, eccetera, ed è una cosa che naturalmente più che accettabile, ma non so chi era Zubin Mehta che includeva, no, eseguiva Star Wars piuttosto che, cioè dopo diventa che vale tutto, lì bisogna stare attenti a capire qual è il limite oltre il quale diventa davvero spettacolo e non è più funzionale a dirci una cosa autentica, perché il problema di tutte queste esperienze è mantenere una dose di autenticità. Quando diventa finto, e Giulini è tutto tranne che una persona finta, falsa, allora lì non va bene, non va bene, perché non siamo, non credo che la nostra vita, poi anche qui io non credo, Giulini evidentemente non credeva, ognuno può credere quello che vuole, però secondo me l'importanza di Giulini sta in questo, cioè io ho visto che forse non è il più grande direttore d'orchestra, però sicuramente è secondo me uno dei più importanti, se non il più importante del Novecento italiano, assolutamente, che poi anche Toscanini se ne parla tutti, ma chi l'ha sentito dirigere? Cioè chi lo conosce? No, appunto, voglio dire. Sui dischi. No, tutti dicono il più grande, ma non puoi paragonare una registrazione discografica di Toscanini con quelle che abbiamo avuto in anni più recenti, sì, perché certo. È come paragonare pere e mele, insomma, quindi diventa anche complicato. Per cui secondo me l'importanza e il valore di un libro su Giulini sta nel, come io spero sempre nelle cose che faccio, di far conoscere degli esempi di umanità. Giulini era un grandissimo umanista, aveva una grandissima fiducia nell'uomo, da religioso, ma aveva una grandissima fiducia nell'uomo, perché lui sapeva perfettamente che non esisteva l'esecuzione perfetta, che non però i compositori erano geni, certo limitati, perché potevano avere degli elementi di meschinità, come tutti gli esseri umani, quindi non ne faceva dei geni, come si usa spesso, quello è un genio, quindi sembra che tutto quello che fa... No, era un genio perché faceva quelle cose lì, però magari era una persona anche con molti problemi, molti limiti e molte difficoltà. Da una parte, dall'altra era uno che, per quanto molto modesto, diceva: quando io ho preparato la mia partitura... Sì, scusate, adesso, devo ripetere tutto, devo ripetere dall'inizio. Era uno che diceva, quando io ho studiato la partitura, quella è la mia verità, che è un'affermazione forte, però è la mia verità, diceva, no? La verità, che insomma è un po' diverso. Vorrei anche ritornare a quello che diceva il nipote di Carlo Maria Giulini per quanto riguarda le registrazioni. Probabilmente, cioè... Giulini aveva paura di queste registrazioni, perché la registrazione non può assolutamente specchiare quello che il direttore d'orchestra fa in sala, perché dipende anche molto dai microfoni, dipende da come vengono calibrati. È per questo che molti direttori d'orchestra, fra cui anche Claudio Abbado, non è che vedessero di buon occhio queste registrazioni, perché puoi falsare effettivamente il lavoro che vuole fare il direttore d'orchestra. Io volevo chiedere una cosa qui al pubblico, se c'è qualcuno che vorrebbe fare una domanda all'autore, qualcosa che può interessare. Riguardo... Qualcosa che non avete sentito fino a 2 minuti fa. Io non porrei molta enfasi su questa cosa della registrazione discografica, perché Giulini le registrazioni discografiche le ha fatte, e ne ha fatte molte. Diceva: per me è come fare un concerto, solo che ci sono i microfoni e mi riprendono, motivo per cui spesso lui canticchiava e bisognava ricominciare da capo, perché lui proprio dei microfoni ne fregava nulla, mentre Glenn Gould, anzi, voleva che fosse incluso il suo cantato eventualmente. Giulini non dava tanta importanza, ma... Giulini è stata la sua fortuna, la grande discografia, perché lui ha cominciato a incidere quando gli impianti di alta fedeltà hanno cominciato a circolare nelle case delle persone, e lui incideva per la EMI, per la Deutsche Grammophon, per la Sony. Forse, sì, certo, grande esperienza con le orchestre, però sicuramente la discografia è stato un momento importante nella vita di Giulini, e non così demoniaco, secondo me, alla fine. Forse non... forse non così importante nella sua esperienza, ma per noi sì invece, no? Perché resta uno di quei direttori di cui puoi ascoltare delle cose, le puoi ascoltare bene. Quindi... Basta pensare al quinto di Beethoven con Arturo Benedetti Michelangeli. A questo proposito volevo chiederti appunto questo rapporto tra Benedetti Michelangeli e Giulini. Secondo te questi due personaggi come si vedevano? Vuoi che tiri fuori ancora la questione del segno zodiacale? Si vedevano come un toro e un capricorno. Allora io ho un figlio del toro, io sono del capricorno e c'è poco da fare. Il toro è lento, finché non ha digerito quella roba lì non ci si butta, ok? Invece il capricorno è un po' più buio, un po' più scontroso, un po' più rompicoglioni, vuole governare tutto. Sai, Benedetti Michelangeli era quella roba, è nato come me il 5 gennaio, Benedetti Michelangeli, quindi vi faccio finta di capirlo meglio. Ma a parte le battute, credo veramente, credo di averla scritta, o poi non lo so, adesso ho ripetuto alcune cose anche nelle interviste, quindi non so più dove ho detto che cosa, ma questa inquietudine che Giulini proiettava sugli altri... Era sua, certo che gli altri ce l'avevano, perché Michelangeli era un personaggio inquieto, perché la Callas era un personaggio inquieto, perché chissà quanti altri erano personaggi inquieti. E Giulini apparentemente non lo era, apparentemente, perché riusciva a governare questa sua inquietudine, questa sua insoddisfazione continua, anche nelle registrazioni. Poi il problema è questo, che una volta finita la registrazione ogni direttore dice io posso farla meglio, solo che se l'hai fatta dal vivo non la puoi rifare subito. Se sei in studio di registrazione la tentazione ti viene, rifacciamola. Questo è. Per cui il rapporto secondo me tra, per quel poco che ne so, perché non è qualcosa che io conosca molto, ma il rapporto tra Benedetti Michelangeli e Giulini non poteva che essere di questo tipo, cioè due persone talmente diverse fra di loro che... si potevano incontrare solo su un piano artistico finché hanno potuto farlo, ma che difficilmente avrebbero potuto colloquiare, diciamo così. Si dice però che Arturo Benedetti Michelangeli avesse un rapporto molto conflittuale con moltissimi direttori d'orchestra, fuorché con due, Celibidache e Giulini. Forse anche si vede, c'è un aneddoto tra Giulini e Arturo Benedetti Michelangeli. Arturo Benedetti Michelangeli voleva fare una tournée con Giulini e dopo un concerto che si è svolto, se non sbaglio, in Israele a Tel Aviv, Arturo Benedetti Michelangeli manda una terza persona a chiedere a Giulini se voleva fare una tournée con lui. E Giulini ha detto, ma perché non me lo viene a chiedere di persona? Questi sono due personaggi molto molto interessanti. Però da una parte, cosa ne pensi tu? Giulini è un personaggio un po', diciamo... Non ha mai avuto un agente, non ha mai avuto qualcuno che si occupasse di lui, salvo la moglie. Mm-hmm. Lui ha sempre... queste cose le ha sempre proprio odiate. No, ma Giulini era molto chiuso, diciamo, in se stesso. Non è che... mentre Arturo Benedetti Michelangeli era più... non voglio dire scontroso, però aveva questi atteggiamenti un po' particolari, come dicevamo anche... Michelangeli, sì, per quel poco che so anche della biografia di Michelangeli, credo che abbia avuto una vita un po' più... parte essere appunto un capricorno un pochino scontroso, un pochino incazzoso, per dirla in un termine musicale, ma a parte questo, secondo me ha avuto anche qualche rogna in più nella vita. Giulini ha avuto una vita molto fortunata, ha avuto davvero una bella famiglia, a parte la questione della moglie, della malattia di Marcella. È stato fortunato a trovarsi, dopo la liberazione di Roma, un amico direttore che potesse dirigere, per cui lì è partita una carriera incredibile. Previtali l'ha mandato a Milano perché non voleva andare lui ad aprirlo. Cioè, una serie di casi fortuiti, davvero fortuiti, che l'hanno messo sempre in grandissime condizioni di lavorare. Le grandi orchestre internazionali, quando Ghiringhelli voleva fargli terra bruciata intorno in Italia, quindi non avrebbe più lavorato Giulini, e così via. Benedetti Michelangeli, un paio di rogne fra le varie, io le ricorderei, perché la questione col Ministero della Pubblica Istruzione sui corsi, eccetera, lo avevano abbastanza irritato, e anche il pignoramento del pianoforte per la vicenda dell'etichetta discografica fallita di cui lui era consocio non era proprio la cosa più piacevole, quindi non so, io provo a metterci queste cose oltre al fatto caratteriale, oltre a tutto quello che vogliamo. Poi il pianista non è un direttore d'orchestra, sono due figure così diverse, no? Dicevamo prima, perché sì. Il direttore d'orchestra alla fine è... non c'è il fatto fisico, questa cosa mi ha sempre colpito, lo dico nel libro, cioè il rapporto fisico con lo strumento è essenziale. Tu puoi amare o odiare uno strumento musicale proprio per il fatto che tu tutti i giorni hai un rapporto con questo strumento, magari strumenti a danza, c'è gente che studia per anni e poi li mette via, non li vuole più vedere perché li odia, oppure lo stesso pianoforte, oppure c'è lo strumento, appunto se hai una chitarra o un pianoforte tu ci passi davanti e ci devi mettere sulle mani, è un fatto fisico, quotidiano. E il direttore d'orchestra questa cosa... Ma io personalmente penso che il direttore d'orchestra proprio sia diciamo è tutta un'altra sfera, perché riunisce un po' tutto, perché lui deve conoscere le particolarità, sì, di tutti gli strumenti. Parlo dell'attività fisica quotidiana. Sì, sì, certo. Quella cosa lì rinunci. Tu sei un violista, metti via la viola, non la tocco più. Beh. Sei un direttore d'orchestra, ma mica tutti, molti studiano il pianoforte, le partiture. Sì, sì, certo. E lui neanche quello. E io lo trovo un aspetto veramente molto, molto interessante. Sì, molto... certo. Sì, sì, non lo vedo come un limite. Ti fa vedere come Giulini, diciamo, fosse completamente musicista. Sì, sì, non lo vedo come un limite, lo vedo come una caratteristica molto, molto particolare, molto speciale, sì. Bene, Claudio, io ti ringrazio. Grazie a te, grazie a voi. Se avete domande... state bombardati di aneddoti. Grazie. Bene, allora io... Ecco, sì, c'è una domanda. Io ho un ricordo personale non come musicista, ma come frequentatore di scala per mezzo secolo. Ho un ricordo personale non come musicista, ma come un melomane, possiamo dire, anche se è un'etichetta un po' limitante, frequentatore della scala e logionista. Quindi quante code in via Filodrammatici. E Giulini aveva la casa vicino a via Filodrammatici. A proposito del suo carattere, qui mi inserisco, quando lui passava e ci vedeva in coda, io ero giovane, parlo degli anni 70 quando facevo l'università a Milano, ma anche negli anni 80-90 con la mia frequentazione continua, lui passava e si fermava cordialmente. E quello che mi ricordo era la sua... umiltà, la sua voglia di conoscerci, la sua voglia di parlare, e il suo abito fuori moda, i pantaloni ancora a coda, a zampa di elefante. Ma lui non era basso, era alto, però si vede che faceva parte del suo carattere. Un'altra cosa, se non stupido. Si vede che non c'era più la moglie. Si vede, sì, sì, sì, ma secondo me rientrava anche nella sua dimensione. Nella sua... Un'altra cosa, a proposito della fortuna di Giulini, gli ultimi anni in cui poteva ancora dirigere con la filarmonica alla Scala, lui è stato escluso dalla Scala. Certo. E questo lo si deve al sacerdote del grande maestro. E non nomino il maestro, ma il sacerdote, sì, anche se non c'è più, si chiama Luigi Pestalozza, che nei suoi libri ha sempre scritto malissimo di Giulini, ma non nei termini musicali, in termini proprio umani. Stasera c'è concerto di Giulini, bisogna prendere 3 caffè. E sempre sulla considerazione della lentezza dell'arcata di Giulini rispetto al guizzo o alla scenografia, appunto, del maestro in quegli anni, che ha buttato fuori. Giulini ci teneva all'integrale delle sinfonie di Beethoven, che poi il maestro ha voluto. Poi, se non stufo, un ultimo ricordo. La Traviata. Io ho conosciuto, non ho potuto vedere la Traviata nel 55, Visconti, Giulini, Callas, però io ho conosciuto una personalità stupenda, aveva una parte minima, annetta, si chiamava Luisa Mandelli. E Luisa Mandelli, dopo la sua breve carriera di cantante alla Scala, è sempre venuta alla Scala con noi, cioè facendo le lunghe code. E lei mi parlava, lei mi ha raccontato la Callas, mi ha raccontato gli spettacoli, mi ha raccontato Giulini. Ecco, l'ultima cosa che voglio dire, ci fu un accordo fra me e lei di venire a prenderla, lei era ospite della casa di riposo Verdi, per portarla qui a Bolzano, sulla tomba di Giulini. Ci teneva proprio e purtroppo non sono riuscito a realizzarlo, avrei dovuto prendere contatti con... E è morta quell'anno, l'anno dopo, insomma. Ci teneva tantissimo a venire a Bolzano. Scusate, non penso di essere... Siccome hai toccato il mio amico Luigi Pestalozza... Luigi Pestalozza è una carissima persona, molto ideologico, questo è un fatto. Tra l'altro è uno dei protagonisti del documentario su Ferruccio Busoni che avevo fatto, che non credevo, ma invece lui amava molto. Tra l'altro avevo organizzato un convegno a Bolzano negli anni Ottanta su Ferruccio Busoni. Ma visto che hai trovato Pestalozza, ti racconto un piccolo aneddoto invece che riguarda proprio il rapporto di Giulini coi critici e soprattutto la funzione a volte di Marcella, la moglie. C'era un critico a Los Angeles che trattava Giulini sempre malissimo. Ora, Marcella non conosceva una parola di nessuna lingua straniera, ok? Era anzi una romanaccia a modo suo, no? I figli dicono, era proprio quando scattava, veniva fuori proprio la sua anima, quasi da borgatara. Ma sapeva creare il contesto, lei era amicissima della Callas, lei entrava subito in relazione molto empatica con tutti i personaggi, perché voi vedrete anche nel libro le foto, insomma, da Golda Meir a Visconti, Visconti arrivava con questi mazzi di rose enormi da Marcella quando loro stavano a Roma, eccetera, eccetera. Questo critico che trattava in maniera bestiale, dice Alberto, Carlo Maria Giulini, un giorno viene invitato nell'appartamento dove risiedevano a Los Angeles, una suite di un albergo, e Marcella gli prepara delle tagliatelle strepitose. Da quel momento il critico ha cambiato completamente atteggiamento. Ecco l'enogastronomia con la musica. No, perché la musica a volte non è poi così seria, diciamo. No. È vero, quindi chissà, Luigi Pestalozza non era un gran buon gustaio, effettivamente era difficile capire da che parte prenderlo. Bene, io vorrei ringraziare Claudio Chianura per questo incontro, vorrei ringraziare voi tutti per essere venuti e per essere rimasti fino alla fine di questo incontro. È un libro che io, come diceva anche il signor sindaco, ho letto veramente d'un fiato, molto interessante anche perché entra negli aspetti appunto non solo biografici di Giulini, ed è assolutamente un libro che è accessibile a tutti. Io vi ringrazio, buona serata e alla prossima. Grazie.